Attenzione, a Torino ci sei, cambio. Sì, già sono qui. Io boh, che sei, sono quello di abitanti. Le scarpe mi devo mettere, boh. Ti porto con me. Ma a vivere. Sono due bionde, se no una è di troppo, cara. Due a questa età, vabbè che... Ci vuole una piccola per dare una mano. E ti aspetta, manca lì che faccio il giro. Che non mi ha sfrugato i freni questo qua, mi si fa trubilare. Lì, sto ritornando indietro che non mi ha sfrugato i freni, che mi scende il pedale. E dove stai andando? Ma dal meccanico stai tornando. Allora, se non mi ha sfrugato i freni, cazzo, si fa trubilare che andate a frenare. E sono 6L22. Aspetta un secondo, già ti richiamo, va. È sicuramente una cazzata, serve aprire il rubinetto e cose per far scendere l'olio e poi riaggiungerlo. Vai, vai, già sono qua. Attenzione, Natalino, mi ascolti? Oh, via. Yeah. Lo sto guardando adesso, poi fra un passo, vai. Sì. Ah, chiudo. Allora scendo. Sì, allora sto venendo, sono già lo sai dove sono. Andare, là, devo fare un po' di spesuccia, ci pigli, là. Sì, là. Perché devo fare l'assestamento, che non era da sfruttare, ma un po' di sfruttato non l'ho fatta e vedo che è un po' più duro, non mi vuole dare ragione, deve essere. Pronta la nuova con la macchina. Mi devi dire che la cuffia legge. Che no, si può anche fare lì. Non è un problema. Passa a casa a portarmeli, che non ne volevo venire a prendere. Facciamo così. Quanto vuoi? E prendo che non ho una Range Rover. No, non ci sono problemi, figurati. Che problemi ci sono? E magari forse no, ma per me già ci sono. Sì. Se ne possono comprare anche 3-4. Per cosa non si 100.000 euro, eh? Quanto? 70, 80.000, quanto costa? Non me ne è quella la 5. No, quanto costa? 70.000? Io sono di sicuro giusto, ma penso che la cifra sia di lì, eh. Allora, senti, per 5,35, 5 ne possiamo comprare. Va bene, allora, a me mi basta una, mi, se sei così bravo e così gentile a comprarla. I ferudi, mi si sono cosciolati i ferudi dopo 12 anni che ce l'avevo, capito? Non avevo per cambiare. Quelle questioni di consumo, dopo tanto tempo ci vuole. Ma sono riuscito al meccanico, ho detto, li ha provati, frega, sì sì, vado a scifre ragazzi, vado a frenare, e mi ci scende tutto il frenare, poi lo ammazzo, non mi cura la macchina, lascia, tornati indietro, fammi lo spurgo, vai, che ti sei dimenticato di fare lo spurgo, non ho fatto lo spurgo, ma andavo bene, ho fatto 10 km, detto che è strano, adesso si sente il pedale che è bello duro, dice no, è perché deve fare l'assestamento, adesso che gli ha fatto lo spurgo, come non è più duro il pedale, non mi vuole la soddisfazione, là. Tu guarda che sono autista e queste cose me ne accorgo subito. Sono tutti randagi, tutta gente disonesta, gente incapace che non sa lavorare. No, già sanno lavorare, però magari si è dimenticato, l'ha fatto male, non lo so, però l'ho detto, sì. Ma vedete, sì, quello lì era ubriaco, era cosa mi sa dire. Io non ho provato proprio niente, non lo sarei dimenticato di fare lo spurgo. O perlomeno chissà che cosa ti ha cambiato, se veramente ha cambiato i freni. No, già mi ho visto anche che doveva cambiare. Ma però io scendi che sono sotto. Come mi senti lì? Oh, già. Vengo là per Radio 5 Giulio, io sono sotto casa di Natalino però. Va bene, io lo so che sei matto. Va bene, comunque già va bene. Ce l'ho molto basso l'antenna, a livello proprio meglio. Babbo, ti saluto che sto chiudendo, che devo fare delle commissioni di giù. Ci sentiamo, buona serata. Ok, ciao, già, ciao. Guarda voi. Ah, fottiti voi. Giù. Non c'è il canale 10, però. adesso ci sono. E la devo spostare per il lato laterale. Beh, ho sentito, non ho capito di più. Ciao, buonasera Giulio. Ciao, va. E lì, sono parlato con Gianni poco fa, è andato a prendere a Natalino e sono usciti insieme. Via dai, devi solo il giro a Cigia, io sto andando al lavoro, figurati. D'altronde, no, è andata, sono andato a fare la spesa, Bucugliani stava dicendo Gianni, poi non lo so, lui che è passato da Natalino, l'ha invitata, io che andiamo a fare un po' di spesa, e lui si fa un giro. Aia, non la spesa la fate i miei mogliti. Maggio io te poi vai in Pisa. Via, via, stanco morto, sono entrato quattro ore fa, 20 minuti fa. Sa con giorno stai facendo, da che ora? Dalle 5, dalle 6 del mattino, così? Dalle 6 e 10 sono uscito, vabbè adesso tutti, fino a settembre così. Fino a settembre. Dalle 2 fino alle 5 e mezza, tutto straordinario. Buono così. A quando settembre c'è un altro paio di stipendi in più. Buoni. Soldi servono sempre. Sacrificio viene a farlo e io lo proprio. Fino a quando ce la faccio, lo facciamo sacrificio. Certo, già lo credo. Ore di lavoro, lo so, sono pesanti tante volte, però bisogna farle quando è necessario soprattutto, e quando si guadagna, soprattutto quando si guadagna bene, per cui bisogna farle, perché se non si fanno quando sei ancora giovane, in condizioni di poterle fare, quando le fai, quando hai 90 anni. Lo so, giovane, non siamo, inizia a pesarmi, la stanchezza c'è, cioè, viaggio, vai, vieni. Cosa pranzo ce n'è pochissima perché c'ho neanche un'ora perciò è così però se i soldi servono e allora li mettiamo a correre anche quest'anno. È meglio dai, quando è possibile guadagnare, anzi bisogna approfittarne quando ci sono questi momenti così che l'azienda ti offre di guadagnare qualcosa di più, è tanto di guadagnato a parte l'operaio, già lo credo, meglio farlo, dai. E lui, se io dovessi mettere insieme tutte le ore di straordinario che ho fatto, anche se ho lavorato 48 anni a conto mio, ma se dovessi mettere tutte le ore in più che ho fatto tutti i santi giorni, non ho 75 anni, ne avrei 120 di anni come minimo. Lo so, no, infatti, mia azienda per quello non ha questi problemi, ti mette in condizioni di farle e si fanno perché ti ripeto, soldi servono. Non vedi detto alla mattina in radio, quanto c'è privato, ma quest'anno abbiamo deciso di fare altro, sicuramente, voglio farmi un viaggetto, andare da qualche parte, non so come andare da lungo. Facciamo molto volentieri, perché per il resto non manca niente, grazie a Dio, quindi mettiamo a casa questa volta la radio e lasciamo dove sono. Io credo, mi stavo leggendo adesso su Troppo Calcio 24, è morto Sarpi, il portiere famoso, quello che con la Fiorentina mi sembra che era, ha giocato tanti anni con la Fiorentina, 83 anni è morto. Sì, l'ho sentito stamattina, ma vabbè, tutti i casini sono sostituiti, boh, mi oggi non ha fatto andare a Parigi, mi pare peccato, torna oggi pure. Ma quello non lo so perché non ho ascoltato il telegiornale oggi, stavo facendo cosa, per cui, cioè stavo ripristinando la cosa, la mantova tubo. Ho cambiato il connettore dove si attacca quando la pannella, dove si attacca il PL, l'ho trovato uguale a vite, però non ho un saldatore, adesso ne ho due, uno si me la torte, avevo comprato lì una cosa, la piccola, per carità, adesso me lo faccio arrivare là fuori, uno come serve, stamattina l'ho chiesto a Fusano se ce l'aveva, era come quello dei cinesi, se se vai non ne voglio questa bucaria. No. Assolutamente, ormai quello mi si era bruciato lo stesso, anche io non amo la roba, è stato non ci vediamo. No, ho detto, lo devo prendere serio, buono, perché se la trovo è buono, non faccio lì. Ho detto, no, ma te l'ho detto, già ci sono quelle pecche così a pannello con la ghiera, no? L'ho vinto, devo stringere bene. Stretto bene, con la chiave possibilmente. E via, e poi lo saldi, già funziona bene. Sì, l'ho ripristinata tutta, adesso ci manca solo per attaccare il filo così, per contatto, ma ripeto, se non ho il saldatore che mi aspetto che salda bene, aspetto, vabbè, tanto adesso già sta funzionando, adesso sto funzionando con la radio, non è un problema, anche se è molto bassa io. L'antenna, ma già va bene così, l'antenna, un dipolo l'ho alimentato al centro, e va bene lo stesso. Sì, se non vuoi vinti, no? È lo stesso segnale della mappa, quanto ho detto, quindi se non lo vincevi non mi essere neanche accorto. E poi c'è un metro di palo, perché l'ho messo in terrazzo, l'ho messo tutto dal pavimento, un metro di palo dal pavimento, e da lì passa l'antenna, per cui se dovessi allungare il tubo, lo metterla 5 metri più in alto, sarebbe ancora meglio, ma comunque, va bene, al momento va bene così. Sì, no, io devi vedere, ho che fa bene, non va bene, non va bene, sì. Mi sto per fare due chiacchiere, tanto se non lo dicevi, non mi sei neanche accorto, tutto segnale normale, perciò, va bene. E via, è un gioco affatti, così è, non mi attribolare, non mi venerdì. Infatti stavo guardando il telefonino perché non ci abbiamo la richiesta sempre con l'applicazione telefonica per la richiesta per le fedi, no? Quindi ho preso già tra le fedi e c'è il semaforino rosso, capito? Perché non potevamo fare. Io quando è inoltrata che la stanno leggendo diventa arancione, quando è approvata diventa verde. Infatti mi ha già guardato ancora giù i telefetti, quindi non lavoro. Il mio lavoro è portare la macchina a fare i freni, c'è un sacco di cose da fare che purtroppo non si possono fare sabato mattina e la sera, no, perché è dietro tardi, e quindi mi prendo venerdì, e così faccio venerdì e sabato, perché sabato sono a riposo, lavoro domenica, capito? Venere sabato, mi faccio queste cose, e qui sono a posto. Per certo. E mi anche Risani mi stava dicendo che era il meccanico per i freni, che la macchina, dice che gli ha dato la macchina, è uscito, è andato a frenare, lo frenava, dice che si era dimenticato di spulgarle, perché ha cambiato le pastiglie o le ganasce, non so cosa, comunque si era dimenticato di spulgare il freni. L'imbizio sia un meccanico, deve essere così disattento. Sempre due capitati, no, io metto anche la pompa nuova di freni, alla 600, capito? Che è vecchia, non perde olio, ma comunque non va bene, non l'ho comprata, per venerdì mattina me la piatto, fanno tutta la parte frenante nuova, perché poi il prossimo mese entra la carrozzeria da Roberto, così la faccio tutto ripristinare a nuovo, l'avevo presa appunto a 2 lire per andare al lavoro, però sono una macchinetta che funziona bene, adesso la sto mettendo tutto a posto. Ok, beh certo, va bene, ma è così, ci sono certe macchine, ad esempio c'è un mio amico che lavorava lì vicino alla bottega da me, è andato a comprarsi la macchina nuova, è la macchina sua, anche se ha 11 anni, e Allora, se tu la vedi questa macchina è un peccato per salva, di quanto è nuova, nuova, nuova, nuova. Ha un po' di chilometri. Però è una bellissima macchina, tanto 1.400. E voglio dare 1.500 euro. Ecco, mi ascolta. Per darla a lui 1.500 euro, per darla a lui, valutata 1.500 euro, lei a me, se me la abito io, a costo di diritto a Vemma, perché è già sotto casa. Però non gliela dare per 1.500 euro. Lo so che non sono valutate le macchine, soprattutto di una certa cilindrata, ma se tu vedi questa macchina, non c'è un graffio, non c'è un rumore, io ci siedo sempre con lui sulla macchina, non c'è un rumore dentro, è perfetta, ma veramente perfetta. Lo so, è quello che ho io stesso. Una ragazza ha avuto un colpo dietro, al fianco, non l'ho accusata più. Non c'è manco 100.000 km, una 600 SX, c'è anche l'aria condizionata, le guida, tutto, tutto un modello proprio. La 600, figurati. E niente, il motore è nuovissimo, meccanicamente a posto, gli interni sono due nuovi. Niente, facciamo fare queste cosettine, capito? Ho fatto fare da un bretto meccanico i freni di dietro, adesso lo facciamo fare quelli davanti. E poi va in carrozzeria da Roberto Quadrato. Ho messo tutto a posto perché è una macchinetta eccezionale, mi disimpegna tantissimo per andare al lavoro, per fare commissioni, perché l'altra è grande, capito? Non ci voleva, ho pagato una fesseria e un altro mettiamo a posto piano piano, capito? E quindi venerdì faccio questi lavori insieme alle luci. Così. E sono macchine a volte che le buttano via e sono, vanno meglio di quelle nuove. Sì, lui se la voleva cambiare così, più che altro con sfizio, ma quando è andato poi gli hanno offerto 1.500 euro per la sua, ha detto no, lascia perdere, dai, che già ci penso e non metto sul lato, ha detto vai, ma da lei dopo 1.500 euro te la prendo io a costo di restare sotto casa, a me non mi serve, ne abbiamo due a casa, però è un peccato veramente, guarda, solo a un treno di gomme, ma messo da poco, ha pagato 450 euro solo il 4 gomme, figurati, non me la dai, mi dessi cos'è tu io la macchina, in perfetto ordine, anche se ha più di 100.000 km, però è perfetta, se sto dicendo che tu la vedi è veramente perfetta. Tu sto dicendo che facciamo un colpo allo sportellone di dietro, che lo sportellone noi abbiamo trovato a 100 euro, esatto, quindi da damicciare perché è diverso colore. Faccio queste fesserie, feri, la macchina tua. Quindi è perfetta, va bene. E macchine grosse sono valutate poco, macchine piccole ci vogliono, però ti ripeto, io anche la moto, una macchina, due macchine, quindi va bene così. L'importante è mi disimpegni per portarmi al lavoro, col valore che adesso vuoi sempre a casa, è tanto. Faccio lavoro a casa lavoro, perciò io già mangio il preoccupa. Ah beh certo, in effetti non mi vale la pena spendere tanti soldi per la macchina. No, io, la mia, quanti anni c'è? Dal 2009, sì, 2009, 7 anni, praticamente 7 anni, dai, 7 anni e mezzo. Infatti questo mezzo la devo revisionare per la seconda volta. Per la terza volta la devo revisionare. Ma la mia è perfetta lo stesso, cosa va? Fa 32.000 km appena quella. L'altra già è a 150, 160, stasera è proprio il viaggio quella, che mia figlia è andata a Orizzano, per cui rientra stasera. Quella già cammina molto, ma quella la mia cosa cammina? Non cammina nulla, è 32.000 km in 7 anni, immaginati cosa ha camminato, nulla. 32.000 km in 7 anni, ma io di lavoro, c'è un anno e mezzo, c'è 72.000 km. E tu la usi per lavorare, giustamente, tutti i giorni viaggi, ma io ve lo faccio, a casa, a piatto cibi, la lascio lì, poi quando devo fare qualcosa vado a piedi, come stamattina, sono salito addirittura a posare a piedi, anzi ho ho approfittato dell'occasione per fare quattro passi, visto che cammino poco e niente, per cui adesso domani lo stesso sarà lo stesso discorso, perché faccio da casa a via Misercedi e pure le poste, e domani sono in pensione, per cui vabbè, potevo andare oggi, potevo andare ieri, eccetera eccetera, ma oggi io ci vado sempre l'ultimo giorno, diciamo, perché se no c'è troppa gente e non mi sa di stare tutta la mattina aspettandoli. No, mamma mia, mi facevano fare tutti i correnti, anche la luce, capito, che scale, per dire, il primo del mese, la pago sempre prima, non ci vado mai il primo del mese perché è pieno di gente per la pressione, capito? Infatti non ne vorrà la pena stare lì ad aspettare, non nemmeno per sogno, figurati. No, io per tutte le bollette non andavo mai al coso, alle poste, meno che non sono obbligato, che c'è qualcosa, una cosa che devo per forza pagare alle poste, per dire, no? Ma se no io pago sempre tutto al tabacchino lì, a Pascoli, e ti dirò, tutto ieri stavo parlando con quello. E per caso, ad esempio, la bolletta del telefono mi scadeva sabato, io sabato non sono salito a Sassari, no? Vabbè, la potevo pagare già di punto, però l'ho pagata lunedì, e cosa mi ha detto quella lì? Guardi, se quando viene qua, entro mezz'ora lo ricevo un accredito, risulta pagata. Se invece fa le poste, se ne passano anche 15 giorni alle volte prima di arrivare a credito. Per dirti, no, per cui se noi siamo un monopolio di Stato, per cui è diretto, il Parlamento è diretto, lei viene qua, per la parte dell'operazione è diretto, massimo mezz'ora e c'è già il Parlamento presente, dove deve essere. Sì, Cesar, è quello diretto, sì. Io se c'ho qualcosa urgente la pago così, con la luce, quando è in scadenza, prima della scadenza tu la paghi, a me non me la fotti un davvero da arrivi, non ho mai avuto nessuna contestazione, quindi, capito. Però se capita che se qualche tabacchino, dove sono io, mi pare a Vidalba, c'è un tabacchino con la Cesar, quindi mi carico spesso il telefono. No, pagamenti non ho mai fatto, la verità. Fate sempre qua, a Sassari, qua non sono libero. Oppure fa mia figlia lì a Cittamarcato, capito? No, va bene, va bene. Quindi c'è il Natalino, c'è uscito, non ve nessuno, Marco Condor. È sempre scoricato leggendo, ha detto, sta facendo una cultura. Devo fare. Sì, io ripeto, vado sempre al tabacchino, anche se per farmi cerco di segni qualche cosa, ma non me ne frega niente. Io poi la realtà dovrei risparmiare anche, perché so che dopo i 70 anni so che si paga, mi sembra, la metà anche di incontro, di fare poste come commissione di pagamento, diciamo. Anche che pagare un 20, un 30, quanto è alle poste, se ne pago due al tabacchino e mi va bene lo stesso. Mentre invece per me che ho l'età, ma non ne dico nemmeno, mi dovrebbero fare come regola lo sconto, 70-60 centesimi, quindi versamento mi sembra che sono per i 70 anni, per chi ha compiuto già i 70 anni. Dunque da giù 75, per cui non vado sempre al tabacchino, entro, esco in un attimo, tutto lo manzano, repita, e poi mi fanno anche nervosire, cioè, quelle delle poste del monte lì di via Bugino, io sono poco dromedaria, per carità. Ah, mamma mia, non l'avevo fatto, mi sono andato una volta, poi mi sono lenti, per carità di Dio, che gente, no, io andavo lo stesso da Maurizio, stai certo, da Pacchino, facevo tutto lì lo stesso, capito, addirittura quando c'era il primo tabacchino, quello piccolino, quando ho aperto l'altro tabacchino, mi sono andato poche volte, poi mi sono trasferito qua, ma andavo sempre lì, e sono veloci e tutto, e forse mi si vuole andare chissà di pulsi, se si anda chissà di pulsi, non vuoi mai nessuno, no? A volte mi è comodo, adesso sono fuori zona, ma quando ero in quella zona andavo lì, forse sono in macchina in giro. Sì, sì, Gianni. No, ma penso che stiano ancora facendo spesa. Penso che devono comprare degli roba alimentare, non lo so. Comunque. Si faranno sentire, si faranno sentire tutti e due. Come ti diceva, Ciappa già pitta e malarrata quando erano i tre, ti troverete la piazza. Allora, vedi che mi c'ho qua, si nasce per mezzo da lui, vediamo che uscire un po' col campo, sembra sempre la giornata domani, dovrebbe essere bello, un giro va a lavorare brutto lo stesso invece. Ho visto che è soleggiato, però vuoi denti, non vuoi il telefonino a vedere cosa dici, non mi pare che, mi pare che sia tempo bello domani, vediamo un pochino, allora Google, tempo domani, meteo domani, vediamo, sa se rimette domani, invece vedi, aiuto un po' quindi, sì. Domani mercoledì, sole 24 gradi, alle 7 del mattino, figurati, domani, giovedì lo stesso, 28 gradi, mentre venerdì è un po' nuvoloso, venerdì e sabato, vabbè, ma non me la fottono da cazzo, non ho giù di lavorare, però domani è giovedì e è tempo bello. Ok, ormai. Diciamo che può capitare come è capitato oggi, per dire che ha fatto qualche goccia di pioggia così, ma niente di particolare. Poi è una cosa che non fa il tempo nemmeno a bagnare la strada, si può dire che smette subito. Va bene, ormai siamo in sacco. L'estate è arrivata e ce la possiamo portare fino a ottobre buono, perlomeno qui a Sassari, il clima di solito è così, è buono fino anche a ottobre, siamo bene, dai, solo che ci vorrebbe un bel po' d'acqua, non dico forte, ma una settimana piovendo, magari in maniera né forte e né tanto piano, in modo da riempire i bacini, perché non hai acqua, sto pensando di razionarla perché non c'è, i bacini sono vuoti, cosa vuoi cercare? Opa. Sì, non ce n'è nulla, non è nulla, non è nulla, non ce n'è niente, acqua, siamo messi male, io che ti dica, no, però c'è vento a 26-28 km orari, quindi che vento è, sarà con la vento di Beccio. Oggi dovrebbe essere un pochino maestrale, ma cosa vuole sia? Vento così, tanto per una piccola brezza e più che altro, non è che sia vento brutto. Vento era quei giorni passati, o meno, qualche mese fa, che su era vento, era 130, era poco forte, poco si sentiva la notte, ma mamma mia. Quello mi aveva rotto il perno, le mattine la gabbia del vapore. Infatti abbiamo messo un nuovo passante, cioè non si va bene. Però, insomma, un vento del genere, altri anni non me ne ha fatto. Evidentemente come scillava, come si muoveva le raffiche, era un bulloncino finisce da sì, invece può trovare la roba e dire c'è che non si va bene. E se avessi in basso a macchini. E come fa a rompere un motore così? Assolutamente no, ma che ma adesso quando succhia forte, tu immaginati in quei posti che città dove succhia il vento anche a 300 km l'ora, che razza di danno che fa. Sarebbe fa tanto qua quando comincia a superare i 100 km l'ora, dico qua in Italia, no? Sarebbe compreso, tutta la Sardegna compresa, e ne fa di danno, non so che. Figuriamoci quando fa 300 km l'ora, se vedi poco i tetti scoperchiati e case anche crollate, grazie, per carità. Il vento è pericoloso, soprattutto più quando c'è attrezzature così, come noi degli arcori, capito, stile di tiro e cose, se non sono ancorati, riesci a andare, no, ma non mi ha fatto assolutamente niente, non si è mosso fosse un danno, che fosse l'oscillazione del perno che mantiene la rabbia, non si è spaccato, si è risaldato, perché sono qui fermi a stringere sul palo, capito? Sul montante. Invece io, la lunettina, scrivi, meglio bucato, purtroppo no, bello potente, gli ho messo il perno passante da una parte all'altra con vari autobloccanti, e adesso in base a una chi, non si muove più adesso, assolutamente. Va bene, va bene. Dove siamo? 7:15, va, l'uso il via ancora le 7:15. Ed è stata bella per quello. Che l'otto c'è ancora luce, 8:30, capito? Invece di vero, è zinco, è già bugio, e le 7 sei mai niente. Sì, purtroppo così l'inverno è una rivetta, sono troppo molto pulito, perché fai troppo corta le giornate. E la mattina lo stesso, non luce molto tardi, molto, insomma. Allora ancora bugio, no, l'estate è bella, sono le giornate sono lunghe. La mattina io di solito mi sveglio la mattina intorno alle 6, 5:30, 6, e guardo attraverso le persiane e fuori è già luce di giorno, per cui però considera che abbiamo un'ora avanti, che se sono le 6 sono le 5 in effetti, c'è già luce, e questa se la porta fino alle 8:30, 9:15, anche adesso in giugno mi specialmente, e anche alle 9 ci sarà luce senz'altro, quando sono con le bellissime giornate di sole, ci sarà luce anche fino alle 9. E purtroppo così che il tempo è così. Come ne vuoi va, lo dobbiamo accettare come arriva, come viene. E io esco alle 6:10. 6:10, anche prima, alle 6, c'è luce. E non c'è luce della macchina, metto solo le posizioni, basta. E vabbè. Faccio lì San Camillo, mi fermo da Lama, mi sto fermando lì, sto poco da vita lui, sto prendendo le 6, prendo un caffè, non c'è il giornale, poi basta. 7:20 sono a Sosso, entro, prendo la macchina e me ne vado, e si inizia a correre a destra e a sinistra, mentre mancanti, vero? E allora, è davvero tutto, avanti. Buonasera, mi sto ascoltando, sono che sta a Comuncio. Buonasera, ciao Claudio e Giulio, non so ancora chi c'è. Noi, e anche tu ci sia adesso, posso vedere. Noi tre siamo. Trappa di Apita e Malarrata, il tre re della Biata. Lo prendi. Così è, va bene, va bene. Ora sto facendo orari da paura e quindi non stancano di più, capito? Sono atterrato a casa 20 minuti fa. Sì, quasi in concomitanza con l'orario di Claudio, perché anche lui non mi ha arrivato, diciamo, mezz'ora, 30 minuti fa. Scusate, il telefono, riprendi qua. E via, ciao Massimi, e anche se devo parlare. Sì, è bello, sto provvedendo. Lui, anche io c'era Giulio, sono andato a fare due chiacchiere. Ho detto, infatti, anche io sono andato a trattenere, intanto. Se mi vai a casa, non manca che cosa più esci, se no, devo raccontare Mattomelli. Io non ho bucato i tutti, claro, Mattomelli. Tutto un cimento va giubato. Ma con quel qua nulla. Io, ragazzi, le Mattomelli, però non posso qua nulla, capito? Fa lasciare sopra il tavolo, contarli. Eia, va bene, va bene. No, io sono arrivato, mi docettino. Basta, veramente non avevo neanche acceso ancora. Ero 10 minuti nel divano, così mi stavo un po' rilassando. Sei già nel baracchino? Eia, qua. No, quella è tutta in cellofanata adesso, non la giugana, riesco a percheare tutto e attaccare lì. Cellofanata, ma cosa? Perché la copro, no? Già lo sai dove ce li ho io la radio, quindi la copro bene. Per l'umidità e tutto il resto. Capito, Dio, va bene. sono più importanti del resto. Tutto lì, avanti Giulio. Sì. Certo, ma sbagliati, non credo che sono importanti, ma è importante veramente. Io le avevo cambiate le pastiglie, tu pensa la macchina mia appena 32.000 km, 17 anni ma 32.000 km. Avevo cambiato le pastiglie e saranno 3 mesi fa, 3 mesi e mezzo, e sta girando 4 mesi fa, dai, facciamo. Queste pastiglie fischiavano sempre, continuamente, ma non lavoro, ogni volta che opinava. Perché questi meccanici, io, per guadagnare magari 20 euro dai pezzi di ricambio, anziché prendere quelli originali, ci mettono, ci mettono pezzi fasulli, ci mettono, non era lo stesso, sempre che sia ben chiaro, funziona benissimo. No, ogni tanto si fa la sua musichetta. È caso strano, comincia a fischiare sempre quando arrivo a casa, no? Quando faccio la manovra, parcheggiare come sta frisciando, soprattutto quando sto facendo manovra, incredibile. Ma quando mai un meccanico, chiedimi 20 euro in più, ma mettimi il pezzo originale, non posso andare in giro tutte le volte che freno con vita campana, fatto. Adesso già se lo sta lasciando comunque quel vizio lì di fischiare, questo, capito qua come è la storia. E Claudio magari si è allontanato un attimo. E vabbè, non sai cos'è, magari giù le pastiglie, un esempio stupido ti faccio, magari le pastiglie originali costano 60 euro e le pastiglie magari che fa la stessa casa originali però senza la marca costano 40 euro, capito? Ti mettono quelle, però c'hanno, diciamo, il ferodo che è diverso, capito? Diverso materiale. Infatti è per quello che fischiano, proprio perché il materiale è diverso. Ma se loro comprano quelli che non sono originali, perché? Perché nel prezzo di cambio, o meglio, non risparmiano 20 euro per dire da un kit completo, per dire, no? Ma se proprio vuoi guadagnare il peso, mandami i 20 euro, no, ma mettimi l'originale, penso, non è che puoi andare con questo, tutti si girano un attimo, però non si giravano. Adesso io, vabbè, già se lo sto lasciando, poi di fischiare. Ma tutti, quando stavano, soprattutto quando andavano per il semaforo, no? Sai, arrivi piano piano, scendendo, no? E un piede già schiacciato, e gli dico, con chi lo va? Tutti si giravano a guardare. E poi quel rumore dei freni così è fastidioso, ma fastidio a te che sei dentro la macchina, figurati che è quello che c'è fuori. E vabbè, un macello, ma non so cosa prendono a cambiare pastiglio, credo che prendano una trentina di euro, così. Ma mi aveva preso 80 euro, mi avevo preso per cambiare le pastiglie, sono quelle davanti mi, perché dietro sono a casoni, mentre invece davanti sono a pastiglie nella macchina mia. Per cui, se proprio vuoi guadagnare 20 euro, perché non me lo dici? Guarda, ti devo mettere quello originale, costa, per dire, 100 euro, ti metto quelli, normale costa 80 euro, allora cosa ti dico io? Non il mio originale per 100 euro, per 20 euro non mi fanno né più ricco né più povero, almeno so che sono originali. Sì, perché lì in poche parole non sa cosa ha fatto lui. Ha preso 40 euro di manodopera per cambiartele. 40 euro aveva pagato le pastiglie, capito? Vabbè, io un po' me ne intendo là di queste cosettine, cambio olio, pastiglie, filtri, roba del genere, quindi io vado al negozio, me ne prendo e me ne cambio io, capito? Quindi qua è già un grande vantaggio, perché sai cosa compri e per il cambio te lo sai fare, ma io non so fare queste cose, no? E poi non mi metto a fare perché non ho nemmeno posto dove farlo. Sì, potrei farlo in bottega, d'accordo, però ci vuole anche l'attrezzatura, e poi non mi fido nemmeno, perché non è il mio mestiere. Finché uno l'ha fatto altre volte, sa, se lo sa fare, lo fa e basta, come te all'inizio. Evidentemente tu l'hai fatto diverse volte e sai come si fa, ma io che non l'ho mai fatto, mi metto a cambiare le pastiglie dei freni, ma nemmeno per sogno, figurati, al massimo posso cambiarmi l'olio, se proprio voglio fare qualcosa di meccanico, metto col tappo sotto lo scarico e poi metto altri 3 kg nuovo, quello buono, per dire, no? E poi non faccio nemmeno quello, me l'ha fatto anche lui, il meccanico me l'ha fatto, ma tempo fa questo. Perciò no, sì, vabbè, quando ero giovanotto già addirittura mi era già andato a fare il motore del 2100D, l'ho fatto, caspita se l'ho fatto, e ci ho portato la macchina, poi dopo 16 anni ce l'ho portato a Torre Vecchio perché mi ero stancato di tenerlo, questo se l'hai ributtata è morto camminando, avevo rifatto tutto il motore dall'A alla Z con il libretto di istruzione della Fiat, allora avevo nel 100D, avevo un degli anni, no? Ho avuto coraggio a fare, vabbè, va via 30 anni, nel manco, 29 anni, siete, puoi immaginare, o qualche migliaia. Ma oggi non farei mai una cosa del genere, ci mancherebbe. Beh certo, ma se appena appena la radio, il vate della radio, Giulio, avanti qua. E io, scusate, ce l'avevo un basso. Adriano, ma hai pigliato a me qualcuno di Ganasci, le Ganasce dietro della 600, Massimiliano, 70 euro, Ganasce e manovra, arrivo, forse 20 euro, 30 euro, infatti non ci torno più lì, adesso la porto da un'altra parte perché metto anche la pompa nuova, non sto cambiando le pastiglie, sto cambiando tutto il sistema franante davanti, infatti questa nuova nuova, e dischi, anche la pompa che ogni tanto non pompa, capito? È originale, quindi interviene dalla macchina. La presa nuova, allora, la bugia 70 euro, la pompa dei freni della 600. Alla mettere i cambi ne dire manco. Vi faccio proprio il mio collega Cagliaritano, di Italia. Andato via venerdì che era festa, e ho detto capo domenica, ho detto fammi la cortesia sabato mattina, tanto sono andati a Cagliari, sì, c'è un amico che ha il negozio di telecamera, guarda quanto costa la pompa dei freni, ho fatto la fotocopia del libretto, l'ho fatta su WhatsApp, guarda quanto costa a Cagliari, fammi sapere, ho telefonato, sono andato a Mazzaro e mi ha detto, oh Claudio, 35 euro, coperta di tutto, anche di tutto quello che serve per prendi ma subito immediatamente, ma te ne ricordo, cioè 30 euro di differenza da Cagliari a Sassari, la matessi bomba della Riag, non marca di cinese, no, Riag, capite? Non fa Riag. 30 euro di differenza tra Cagliari e Sassari. Purtroppo è così, però. È un casino, è un macello questi pizzi. Guarda, io devo sostituire gli ammortizzatori alla multipla anteriori per farti capire che qua al negozio c'è un'amica che ha dato i cambi e mi ha fatto con i tamponi, quelli di sopra, no? Quando alzi il motore, visto c'hai quei tamponi neri dove appoggia proprio l'ammortizzatore, mi ha fatto 180. Li sto ordinando dalla Germania, 120 tutto, spediti, tamponi e due ammortizzatori. Tu mi vedi una vergogna, è una vergogna, tu hai detto prendi ma lascio subito, ma l'ha portata lui lunedì mattina, ce l'ha in macchina, capito? L'ha portata lunedì mattina, ce l'ho in macchina, poi ho preso l'appuntamento. Non so se questo amico di mattina me l'ha piazza, infatti ho chiesto una giornata di ferie, se no non avevo gubbetti, faccio fare la pompa dei freni, faccio controllare l'olio, tutti i livelli, tutte le cose, capito? Mi faccio invertire la gommista perché questo meccanico è anche gommista, mi faccio invertire le gomme da dietro davanti, tutto quello che c'è da fare faccio fare, mi sono conosciuto. Seguire tutto il filo, capito? Perché se lo uso molto di più per spostarmi con la macchina d'estate e quindi deve essere a posto. E poi il prossimo mese della busta da Roberto, quadrato, mi ci sono passato anche oggi, entrando al lavoro, e lo faccio fare quelle cose che devo fare, che hai visto. Basta. Poi ci faccio pagare questa macchina, lo sai quanto mi dura? E venera con la gamma la macchina, non va, avanti giù. Ok, sì, ma si vede non ne ho qua, sono con il 2006, con il 360 su 30, ho abbassato un buon microfono e mi sono anche allontanato, era quello, ma forse era troppo poco. E dunque, i batti sono quelli del malattia, basta niente di più. ma sai cos'è qua? Si tratta sempre di capitare in un meccanico che sia onesto, soprattutto. Io, sinceramente, parlando, non ho mai, mai e poi mai, non lo farò mai, discusso il prezzo con un meccanico, mi dici, anche perché vado sempre da quello, sempre solito, perché quando mi ha cambiato, io lo sai, a Franco, a mia cataguante, anche perché io, quando lavoravo, gli avevo fatto la bulla, lui non mi teneva nemmeno preventivo, quando gli dicevo sotto mi dava, senza fare niente a discutere, e così ho sempre fatto io. Io ti seguo da lui da tantissimi anni, ma tanti veramente, per cui se lui mi tratta bene, io mi trovo bene, se mi tratta male la cosa è cominciata a rafforzare, ma mi tratta male una volta, la seconda volta non mi deve trattare più male, perché te lo dico, mi hai trattato male la prima volta, e allora il problema vai in materiale. Beh, certo deve essere così, ma tu Cla non ti preoccupare, quando ti devi cambiare l'olio e cose così me lo dici, vieni qua e lo facciamo, capito? Cambio l'olio, pastiglia, questa cosa così lo facciamo noi senza spendere soldi in officina, capito? Ti prendi la roba, quello che ti serve, l'olio, la cartuccia, il filtro all'aria, e scendi qua una domenica mattina, avevo un gatto più a stare la macchina che a fare un travaglio, capito? Tutto lì. Oh, Giulio, non mi piace per niente quella radio, come essere sincero, senza la offesa, boh, non la sento bene, boh. Sì, di cosa me ne devo prendere? Quel microfono è talmente assolutato, è abilitato, no? Non so se la batteria è ancora buona, non so cosa dire, perché come la senti? Raschia, cupa, com'è? Sì, raschia e non è molto neanche forte come tipo di radio. Però è molto gracchiosa, mi sembra addirittura compressa. Forse magari vorranno abbassare i watt dall'interno. Credo, Non la sento benissimo, Claudio. Sì, l'hai fatto peggiorare, come ho detto, di abbassare. Io non ho detto niente, però. È un po' saturina anche qua. Però abbastanza comprensibile era, ma è abbassato ancora peggio, si sembra proprio che c'hai molta potenza, il segnale è un po' forte, trovate, non va più 20 qua, hai provato quanti watt la stessa radio? Devo prevedere 7-8, adesso ho provato perché aumentare anche che abbassare, niente è successo, ho peggiorato la radio così. Oh, ma gracchia, capito, gracchia. Non ce l'hai un microfono normale per provarla? Ce l'ho, ne ho tanti microfoni, ne avrò una quindicina, ma sono tutti su. Dovrei salire su e prendere qualcuno. Vabbè, nel frattempo, provate voi che cambio microfono. Ho qui il cassetto, ho l'MB4, ci metto la batteria e vediamo un po' se quello va meglio. Ma suppongo che sia la batteria radio scarica, perché mi sa che il modulometro qua non sta scadendo molto, evidentemente c'è la batteria un po' scarica. Riprendi tu qua e cambio microfono. Sì, prova a vedere, perché 7 watt non è normale. È normale, però è un po' saturina, le mani. Sì, ma si vede agli osso. Ui, che adesso è un po' via. Lo so che queste cose già le fai. Se devo cambiare tutti i freni, certo non lavoro al meccanico, so che lo deve fare tutto la pulizia del sistema frenante, capite? Scaricare i freni, mettere la pompa nuova, pulire tutti i tubicini, tutti i rapporti. L'affare per quella originale, è rimasta molto ferma anche la macchina, quindi ho fatto l'olio e niente. Ho avuto di vistori, di uscito di freni, quindi ho comprato l'olio e freni, la pompa, tutto quello che serve. E per il video la porta non la faccio fare. Ma per il resto, se devo fare un tagliandino, olio, filtro dell'olio, queste cose. non faccio niente perché mi serve la macchina. Capito? E poi oggi di PD anche di macchina, guarda che si legge il piscio. Vediamo un po' se Giulio ha cambiato il microfono. Sì, l'ho cambiato, vediamo un po' questo cosa fa. Questo fischia, non lo muove il cano, bacia. Ma fischia addirittura. I soldi. No, più, boh, non si capisce niente. Ma com'è? Perché il gioco forte o com'è? Così non sono passato tutto, così com'è? Ma se la mia chiede della radio, se tutto un fischio non si capisce niente quello che stai dicendo. Sentito, sono a un certo momento, da qualche mese, non ho più sentito l'avviso. Sì, sentito, glielo metterò, sto usando un baracchino perché mi pare che sta facendo dei lavori in campagna e mi ha smontato l'antenna, così avevo sentito io. Ho smontato l'antenna e stavo facendo lavori in campagna, penso che abbia tolto la baracca, insomma la roba, stavo facendo lavori, mi aveva tolto l'antenna e non lo so se l'ha montata, sono da tanto non lo sento bene io. Io sono mesi, sono 2 mesi che non lo sento. Vuol dire che non può. Ma niente, cosa ci vuol fare? Sì, già riprenderà. Ho sentito qui nemmeno quello franco, quello che lavora in farmacia, in ferrovia, in farmacia, ferrovia, che è il modo di lavorare la macchina. Anche lui non l'ho più sentito. Tutti assenti, Valencia, non ho più sentito Franco Bianco, quello di Segnoli, Franco è, lui ha fatto l'entrata di Rioni e la città di Lomazzona, che è quello. No, boh, non so. No, Franco quello di Sassari, c'era anche l'altro giorno, ha fatto la lavorata lì, c'è la radio a casa lui. Ma che non lo sta più facendo lì. Ogni tanto la domenica ho sentito che era d'Alghero. Macchina, violetta, la moglie è una carissima amica, ex collega di mia moglie, quindi ogni tanto già adesso infatti ci dobbiamo organizzare, da questi giorni andiamo a mangiarci una pizzetta assieme, anni fa lo facevamo spesso, ero molto più libero, adesso sono lesionato con questo lavoro, questi turni, quindi non fa, vabbè. E gli altri, no, ma c'è entrando qua sul 10, c'è sempre gente, c'era Valerio ieri, c'era Giuseppe, io, Gianni, Antalino, Marco è entrato l'altro giorno, Luca del Monte, ma no, già c'è il traffico, so che ci sono giorni che giornate belle, capito, esci, e quindi guardino rimane più alto. Io perché sono stanco, rientro tardi, se no la sera avrei preferito prendermi la moto, andare a farmi un girettino così, giusto per pagarmi. Però rientro tardi, sei stanco e quindi mi siedo qua e mi rilascio. Vabbè, adesso io non ho il tempo io. Per te, ero anche per cui non è che potevo seguire molto. Perciò, non penso che già sono rimesso in ordine, anche se in maniera provvisoria, però diciamo che già va. Poi non lo so, questo baracchino mi sembra che dava 7-8 volte, adesso non lo so se effettivamente era così o se siamo entrati da solo, se si è abbassato, non lo so, comunque saremo, controlleremo là, tanto quando le batterie domani, sia in questo metodo che nell'altro, e poi sentirò se migliora o meno, se dipende dalla batteria, perché alle volte quando scarica comincia a graziare, comincia a essere una modulazione un pochino brutta, insomma, ecco, non è conforme all'originale. No, sicuramente la batteria giù perché è molto cupa e poi sembra quasi satura, capito? Quasi satura. L'altra se non fischiava si sentiva che era molto più forte. Quindi sicuramente la batteria. Quindi cambia, vedi tra domani per le batterie tienite. Magari poi rifacciamo la prova, capito? Ok, sì, domani ricordo, ok. Pensavo che la batteria